Il punto di Stefano Folli. Le riserve del Presidente del Senato sulla riforma, di fatto l'abolizione dell'Assemblea, sono lo specchio delle resistenze che si stanno organizzando e alle quali Renzi oppone la sua volontà di andare avanti comunque. È il solito copione. Il Presidente del Consiglio non si rivolge al Parlamento o alle forze politiche, ma all'opinione pubblica. Con le elezioni europee alle porte e dalla Francia arrivano segnali di un possibile terremoto, la priorità è raccogliere quanti più voti è possibile. Tuttavia bisogna guardare dietro le quinte. Il bicameralismo sta finendo e lo stesso Presidente Grasso non lo difende affatto. Se la riforma consiste soprattutto in questo, non ci saranno problemi. Le difficoltà nascono quando si vogliono definire le funzioni e le competenze dei nuovi senatori. L'idea di Renzi, solo delegati delle regioni e dei comuni, nessun costo per la collettività, presenta ancora troppe contraddizioni. Gli altri, chiamiamoli pure i conservatori, vogliono un'assemblea di eletti, il che comporta anche dei costi. Il dissidio non è di poco conto e attraversa, fra l'altro, il Partito Democratico al suo interno.